Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con el coro en el party como loco. Cuida con el homie que se kiffy va de coco. En el VIP con más malandro que con chocho. Y si alguno se pasa lo batí como bizcocho. Spendo 5000 con lei cuando entro da coco. Entro con la gang en el locale e vado loco. Estamos a todo el party, no nos importa la popo. Bitch, I'm on a party with mi ganga como loco. For the money, I'm a big bag. Catch me in a Rari, fucking bitches on my flip flops. Droga y alcohol en las tripas. Armas pa' la clica, mi movie está que flipas. I'm a trapper, so I do my trap shit. And I do my trap dance, so I fuck my trap chick. I'm a hater when I hit a bad bitch. Estoy follándome la duro con el tema en repeat. En el club bebo fifi, no jodo con mis nipsies. I'm really getting money, yo me río to' tus bitches. Keo now is popping, keo keo going Richie. But all my homies on my gang living all creepy. Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con el coro en el party como loco. Cuida con el homie que se kiffy va de coco. En el VIP con más malandro que con chocho. Y si alguno se pasa lo batí como bizcocho. Spendo 5000 con lei cuando entro da coco. Entro con la gang en el local e vado loco. Estamos a todo el party, no nos importa la popo. Bitch, I'm on a party with mi ganga. Sto ballando su tu rock. Sono crazy loco, caldo come il Marocco. Parex baby toro loco. Sono snob, ti snob, mezzo uomo, mezzo topo. Vado sempre di fretta, ti richiamo tra poco. Triplo 7 sulla catena. Si tu sul beat ti fa fare la macarena. Sullando sulla base come fosse un'altalena. Se si tratta di me il flow è gigante balena. Tu spinge malapena. I PG per hit che ho, le tipe fanno il perreo. Baby chiamami Romeo, il principe del Colosseo. Sei mezzo deficiente, dovresti fare il liceo. Ogni anno è nostro, bro 2020. Entriamo dentro al party, baby andiamo loco. Guardo la tua tipa, dice che sono loco. Quando vedi me, dici che sono loco. Siamo loco. Sono il tipico italiano che la scopa sul divano. Se si tratta di dinero, baby sai che lo asemo. Sono un loco, sono un perro, mi metto in bocca un ferro. Need for speed, veloce come Venom. Pensavi fossi morto, sto toccando il cielo. Balenciaga triple S, ti schiaccio come un insetto. Dal gang in Italia porta rispetto. Non sono un assassino, sempre un dito sul grilletto. Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con la gang nel locale e vado loco. Entro con el coro en el party como loco. Cuida con el homie que se kiffy va de coco. En el VIP con más malandro que con chocho. Y si alguno se pasa lo batí como bizcocho. Spendo 5000 con lei cuando entro da coco. Entro con la gang en el local e vado loco. Estamos a todo el party, no nos importa la popo. Bitch, I'm on a party with me.